Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis, continuiamo a parlare di blockchain questa sera con un caso concreto che investe una delle categorie, quella dei notai, che sulla carta più dovrebbero temere l'avvento di questa tecnologia che consente, lo ricordiamo, di gestire registri pubblici condivisi assicurandone l'integrità e l'impossibilità di manipolazione senza bisogno di un soggetto terzo che faccia da garante, tipico mestiere appunto dei notai. Come abbiamo ricordato nelle puntate precedenti, infatti, ecco, nel caso ascoltatele se volete qualche approfondimento in più, la blockchain è in buona sostanza un'architettura software che permette di dar vita a dei database condivisi che tutti possono vedere e consultare, ma che solo la comunità nel suo complesso può modificare dopo un'azione, diciamo, di validazione da parte di ogni singolo membro di questa comunità, che a sua volta possiede una copia del database. Ma diamo il benvenuto al nostro ospite, il notaio Gianpaolo Marcoz, consigliere nazionale del notariato. Buonasera, buonasera Marcoz. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Allora Marcoz, all'ultimo congresso nazionale, solo pochi giorni fa, voi avete presentato un progetto, quello della Notar Chain. Che cos'è? Assolutamente sì, proprio come diceva lei poc'anzi, abbiamo presentato questo progetto perché abbiamo cercato con il notariato di capire come utilizzare la blockchain, come utilizzare questi registri condivisi, e in particolare abbiamo valutato come il punto di forza appunto del notariato sia quello di poter essere diffuso su tutto il territorio. I notai in Italia sono presenti dovunque sul territorio, siamo quasi 5.000, e quindi nel momento in cui si immagina una blockchain di carattere privato, quindi con dei nodi qualificati, con dei nodi che non sono tutte le persone possibili, ma solo determinati soggetti, ecco che abbiamo immaginato di creare la Notar Chain. Un caso concreto ci è stato richiesto da un cliente di un notaio dell'Interland di Milano che aveva l'esigenza di vedere protetto il proprio business. Ecco, adesso ci arriviamo. Quindi sostanzialmente lei dice: questo blockchain, cioè questo database condiviso, che può essere un registro, che viene condiviso da una comunità che ha interesse a gestire l'informazione intorno a un aspetto, per esempio delle proprietà, no? Le proprietà di opere d'arte, per dirne una, e non a caso forse. Ecco, allora voi dite, possiamo essere noi notai, con i nostri 5.000 studi notarili o giù di lì, forse non sono gli studi, ma 5.000 sono i notai, gli studi forse saranno un po' meno. 5.000 sedi notarili. Perfetto, le nostre 5.000 sedi notarili possono diventare altrettanti nodi di questo database condiviso, con la differenza che questi nodi non sono appunto dei soggetti qualunque, ma sono dei soggetti che di per sé garantiscono, dovrebbero di mestiere, una certa credibilità e affidabilità nella gestione dei dati. Ecco, quindi voi dite, possiamo fare questo lavoro attraverso la blockchain. Attraverso la blockchain, attraverso appunto questo database, dando quella garanzia che non è solo la garanzia di modificabilità, ma che è anche una garanzia di controllo su chi inserisce i dati e su quali dati effettivamente vengono inseriti. Che siano corretti fin dall'origine, perché questo la blockchain di per sé non lo può garantire. Ecco, e c'è un primo caso concreto sul quale vi state esercitando. Assolutamente sì, noi siamo stati appunto contattati da un cliente che nella zona di Milano aveva l'esigenza di proteggere il suo business, e il suo business era adatto da dei disegni di alta moda. Questo cliente disegna per quasi tutte le più importanti case di moda e aveva la necessità che il disegno dei propri soggetti venisse in qualche modo protetto nel più breve tempo possibile. Questi ne producono decine, migliaia all'anno o centinaia all'anno di disegni, no? Producono circa 15.000 disegni all'anno. Ecco, perfetto. E quindi in modo prevalentemente digitale, quindi avevamo la necessità che questi file digitali venissero identificati in modo univoco e non potessero essere modificati e avessero una data certa, quindi un marker temporale. È da lì che abbiamo pensato alla prima blockchain notarile, che abbiamo appunto chiamato Notar Chain. Come funziona? Ogni file che viene prodotto e che rappresenta questo disegno viene crittografato, e attraverso un algoritmo viene creato un hash, cioè un codice di 256 byte che è immodificabile ed è unico per qualunque disegno. Quindi c'è un disegno e questa immagine digitale del disegno viene fatta passare attraverso un algoritmo che è come una specie di, diciamo, di tritacarne che tira fuori un codice di 256 caratteri. Esatto. Che rappresenta univocamente quell'immagine se si parte da quell'immagine si ottiene sempre questo codice detto ashtray, mentre viceversa non si può ricostruire l'immagine a partire dal codice, naturalmente. Assolutamente, e quindi non abbiamo nessun rischio che quell'immagine, se viene copiata la stessa immagine, quindi se viene attraverso l'algoritmo riprodotto lo stesso hash, è chiaro che l'immagine è stata copiata. Se viene falsificata avremo un differente hash e quindi in questo senso il cliente è tranquillo che il suo prodotto è assolutamente garantito. Ecco, queste operazioni registrazione della proprietà intellettuale, in questo caso disegni, comunque prima avvenivano, ma avvenivano in modo molto più macchinoso. Certo, prima era molto più macchinoso e molto più lento, nel senso che il cliente doveva recarsi presso un notaio, una volta ogni 6 mesi gli produceva un file in cui aveva caricato in un formato PDFA, quindi un PDF immodificabile, tutti i suoi disegni, e a quel punto il notaio, attraverso un atto notarile, caricava sul e inviava alla registrazione, quindi dando la data certa, l'atto notarile. Lei vede che la copertura e la tranquillità c'era solo con uno spazio temporale molto più ampio. Molto più ampio, mesi dopo magari aver prodotto, o settimane dopo aver prodotto anche queste opere. Esatto, invece adesso il cliente può andare dal notaio, attraverso il nodo notaio avere le credenziali di accesso alla Notar Chain, e a quel punto direttamente dal suo computer lui praticamente in tempo reale può generare questo hash e caricare sulla blockchain del notariato il file. E proteggere quindi il contenuto in tempo reale. Altre applicazioni alle quali state già pensando? Allora, abbiamo sicuramente tutte le altre applicazioni digitali, perché come lei ha detto questo passaggio ovviamente è più difficile laddove i beni sono materiali e non digitali, però proprio sul digitale stiamo lavorando a un sistema di protezione efficiente per i codici sorgente, stiamo lavorando a tutti quei casi nei quali attraverso un file è possibile generare un codice, quindi contratti semplici, le opere d'arte, nel momento in cui andremo le immagini dell'opera d'arte a tramutarle in un file digitale, tutte le informazioni e tutte quelle transazioni che possono essere utilizzate attraverso la blockchain. Anche fuori dall'Italia? Ovviamente questa rappresenta una grande occasione per il notariato, perché fino a quando il notariato gestisce solo, come ha fatto fino adesso, attraverso una delega dello Stato italiano, i registri pubblici italiani, non c'è nessuna possibilità di varcare i confini nazionali, mentre la blockchain è come tutto il mondo del web, non ha confini, e quindi anche per il notariato questa rappresenta una sfida veramente importante. Ecco, quindi complessivamente, insomma, di fronte a questa tecnologia, che quando si pensava per chi doveva rappresentare uno spauracchio, i notai erano i primi che ti venivano in mente, ecco, questa tecnologia in realtà non vi fa poi così paura, si può concludere? Non ci fa paura, anzi, l'abbiamo affrontata, abbiamo cercato di cambiare l'approccio del notariato all'evoluzione, cercando di cavalcarla in qualche modo e rendendoci conto che certe caratteristiche nostre tradizionali ben si adattano a delle evoluzioni tecnologiche, e quindi proviamo ad immaginare come effettivamente possiamo ancora essere protagonisti e non più temere, rimanendo arroccati su vecchie posizioni, che la tecnologia ci scardini dal sistema. Grazie Marcos. Grazie a lei, arrivederci. Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani, quarta puntata dello speciale sulla blockchain. Intanto rimanete con noi, buona serata.